l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, qui in diretta dagli studi di Milano della Radio, i compari dei Conti della Belva vi salutano e vi ringrazio per l'ascolto, in diretta o in podcast, e quindi Oscar Giannino, Mario Seminerio, Renato Cifarelli. Oggi Renato è qui in studio con noi, ne siamo felici, perché la scorsa settimana si stava sposando la figlia, ragazzi, e noi tentavamo lì di disturbarlo. È l'anno delle operazioni straordinarie. Si chiama consolidamenti patrimoniali, si chiamano. Ma detto questo, oggi Carlo Alberto, vediamo se ci riusciamo invece, perché è lui che oggi non ha un matrimonio della figlia, ma comunque è un convegno a Cernobbio. Ma come sempre, cari amici, io vi squaderno in breve di che cosa parliamo oggi, per invitarvi a telefonarci all'800240024 e per darci le vostre puntute opinioni al 3492386666. Allora, noi iniziamo come sempre facendo il punto sulle ultime della settimana. Avete visto che l'Istat ha fatto un po' di ritocchi al PIL dal 2014 a oggi, vedremo che cosa vuol dire questo per il 2016-17 per la legge di stabilità. Nel frattempo la nuova banca in Italia si è aggiunta agli interventi salvifici del fondo interbancario, la cassa di Cesena. Nel frattempo la vicenda del Monte dei Paschi di Siena questa settimana ha avuto sviluppi più che altro giornalistici di fantastici fondi internazionali sovrani che sarebbero pronti a intervenire, ma secondo noi andrà in un altro modo, e ve lo ricordiamo perché ve lo stiamo dicendo da quel dì, a dire la verità. Ma oltre a tutto questo, noi abbiamo tre questioni di cui ci occuperemo, e quindi su queste vi chiedo di intervenire. La prima è molto semplice, pare trae spunto dal sciopero di all'Italia che c'è stato questa settimana, 200 voli bloccati perché alcune sigle minoritarie e sindacali hanno detto no a un accordo e hanno programmato lo sciopero. E la domanda che vi facciamo noi, e vi spiegheremo con esperti perché nel corso della trasmissione, siete voi favorevoli o meno a cambiare la legge su questo e nei trasporti e nei servizi pubblici, almeno in questi settori, introdurre la regola che per indire uno sciopero bisogna che votino i lavoratori con almeno il 50,1% di favorevoli per poterlo indire? Noi pensiamo di sì, a dire la verità, vi spiegheremo perché molte norme in molti paesi europei funziona così. Vi chiediamo se questa vi sembra una lesione del diritto di sciopero o se invece è una cosa sacrosanta per evitare di rimanere fermi a terra, perché il diritto alla mobilità delle collettività vale almeno quanto diritto di sciopero, bisogna contemperarli. E questa è la prima questione. Seconda questione, le Olimpiadi a Roma, perché noi dalle 11.30 a mezzogiorno meno un quarto vi proporremo un po' di opinioni su questo, e vi proporremo anche due versioni diverse delle opinioni del sindaco di Roma, a dire la verità. Noi qui abbiamo tentato per mesi di avere un dibattito serio sui numeri delle proiezioni di Roma, questo dibattito non c'è stato. Quel dibattito serio naturalmente accumulava moltissimi motivi di dubbio, viste le precedenti perdite più delle edizioni tranne Los Angeles, e vista la condizione del debito dei conti pubblici a Roma. Quindi noi siamo dalla parte del dubbio, ma avremmo voluto un confronto serio, il confronto serio non c'è stato. Dite come la pensate voi, meglio come ha troncato la questione il sindaco Raggi comunque, vista la condizione di Roma, oppure aveva ragione chi voleva il CONI e il comitato promotore le Olimpiadi a Roma 2024. La terza questione di cui ci occuperemo è una storia incredibile, e io ringrazio gli ascoltatori che ce l'hanno segnalata. È la storia di un settore, voi direte ah, ma non è molto importante. Pensate, storia degli esercizi commerciali che offrono servizi di estetistica. Bene, questo settore abbiamo scoperto che è dal 1990, cioè dalla bellezza di 26 anni, che è tra virgolette minacciato, per così dire, dallo Stato, che in 26 anni non emana le norme che nel 1990 si era impegnato a emanare. E però, siccome la storia sembra uscita da un romanzo, abbiamo un professionista che ce la racconta, e questa è rivelatrice. Non solo lo faccio per solidarietà a migliaia e migliaia di chi ha un esercizio di questo, di persone che hanno un esercizio di questo tipo, ma perché spiega tutto di come lo Stato continua a comportarsi nei nostri confronti. Solo ieri mi sono occupato del fatto, per esempio, che la norma che faceva intervenire finalmente dopo decenni la parità tra cittadino e Stato nel contenzioso tributario, cioè oggi lo Stato se vince in primo grado contro di me si prende da me i soldi subito, se vinco io devo aspettare la Cassazione, cioè 16 anni. Questo principio era stato introdotto con la parità, finalmente non doveva essere più così, peccato che la norma di attuazione di questo principio entrato nella nostra legislazione la deve fare il MEF non la fa e rimaniamo sudditi. Per gli estetisti peggio ancora, vedrete. Ma oltre a questo, caro Mario, caro Renato, che cosa in settimana vi ha colpito, Mario? Io ho guardato un attimo fuori dal cortile di casa questa settimana, come si può vedere dai post che ho pubblicato. Mi ha colpito molto il fatto che in Svizzera, ricorderete che a febbraio del 2014 ci fu questo referendum costituzionale, perché in Svizzera non ci sono solo i referendum abrogativi di leggi ordinarie o confermativi di leggi costituzionali, ma ci sono proprio referendum che producono articoli della Costituzione dove approvati. Nel febbraio 2014 la popolazione, con una maggioranza molto risicata di 20.000 persone, aveva approvato il contingentamento dei flussi di immigrazione in Svizzera, inclusi quelli provenienti dall'Unione Europea, al grido di prima gli svizzeri. Ora, siccome quell'articolo della Costituzione è stato scritto in conseguenza di quel referendum, ma necessitava di una applicazione operativa e il Parlamento federale si era dato 3 anni, cioè fino a febbraio del 2017, nei giorni scorsi il Parlamento federale svizzero di Berna ha legiferato e hanno deciso che di fatto non ci sarà alcun contingentamento per l'immigrazione dalla Unione Europea e dall'area europea di libero scambio. La cosa ha suscitato un enorme scalpore in Svizzera, con la stampa che ha, diciamo, un ruolo un po' più di cane da guardia che ha in altri paesi vicini alla Svizzera, si è sollevata dicendo: ah, qui praticamente prendiamo la volontà popolare con valore costituzionale e la buttiamo nello sciacquone. Eppure è andata così, cioè di fatto la Svizzera, i parlamentari federali svizzeri si sono presi paura, perché di questo si tratta, perché siccome c'è il principio di libero movimento delle persone tra la Svizzera e l'Unione Europea, a cui la Svizzera ha aderito, ottenendone in cambio una miriade di accordi commerciali, economici, bilaterali, il timore era che l'Unione Europea facesse ritorsione di fronte a restrizioni all'immigrazione dalla UE e praticamente mandasse a monte i bilaterali. Perché vi dico tutto questo? Intanto perché è semplicemente clamoroso, e forse noi dovremmo scrollarci di dosso il nostro provincialismo e guardare anche a cosa succede in Svizzera, modello di democrazia diretta. È semplicemente clamoroso che la volontà popolare, che in Svizzera plasma la Costituzione, sia stata così clamorosamente sconfessata, al punto che c'è una nuova iniziativa referendaria che andrà praticamente a cancellare il referendum del febbraio 2014. E secondariamente questo vale pro futuro anche per i negoziati tra il Regno Unito e l'Unione Europea, negoziati che ovviamente non sono ancora avvenuti perché non è dato sapere quando il governo May invocherà l'articolo 50 May. Del Trattato di Lisbona. Il governo invocherà il trattato, perché Brexit means Brexit, però non si sa esattamente che cosa voglia dire. Ecco, io veramente questo è uno spunto di riflessione molto importante, perché la sovranità popolare, la democrazia diretta contano fin quando la realtà non si presenta a riscuotere la cambiale. Questa è una cosa su cui dovremmo riflettere tutti. Pillola Renato. Ma io mi ricollego a quello che ha detto Mario, perché quello che mi ha colpito questa settimana è proprio che vorrei dei politici che fanno i politici e decidono da politici. Ma tu hai sempre queste ambizioni. Lo so. E io invece mi ricollegavo a quello che è il TTIP, cioè l'accordo di commerciale che dovremmo fare con gli Stati Uniti, perché per volontà popolare, siccome tutti hanno detto che assolutamente è una cosa fatta per le multinazionali, non ci vuole. Peccato che nessuno ha capito che è una cosa che è fatta proprio non per le multinazionali, perché le barriere non doganali, cioè le barriere quelle di regole, autorizzazioni eccetera eccetera, colpiscono le piccole aziende, non le multinazionali. Ma questo bisogna che lo approfondiremo, anche se credo che oramai tra presidenziali americane, casini europei, TTIP, però salterà. Hai perfettamente ragione, cioè, ma lo approfondiremo, vedremo con Carlo Calenda di farlo venire e fare un po' arrabbiare i nostri ascoltatori, che immagino pensi che invece no, sia una orrenda macchinazione dello Stato imperialista e le multinazionali. Traffico. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati qui con la nostra rubrica di inizio trasmissione. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare. Allora Mario, siamo usciti dalla recessione un anno sì, prima. Sì, anch'io ho scoperto stamattina, improvvisamente sono svegliato, ho letto i giornali e ho scoperto che siamo in... No, ma c'è stata la festa retroattiva ieri. Il comunicato dell'Istat però, che sottolineava come questo coincideva con il secondo Renzi, aveva qualche cosa anche che l'Istat faceva sorridere. Tiene famiglia, diciamo. Ti lascio la palla. No, ma non è che ci sia molto da dire. La revisione del triennio 2013-2015 da parte di Istat ha evidenziato che nel 2014 è andata molto meglio del previsto. Quindi il PIL è cresciuto dello 0,1% anziché contrarsi dello 0,3%. Non è che ci sia molto da aggiungere. A me ha colpito praticamente l'immediato lancio dell'ANSA, che come sapete è una disciplina olimpionica in cui eccellono i politici e soprattutto i parlamentari del PD. In particolare la vicepresidente del gruppo alla Camera del Partito Democratico, Silvia Fregolent, che è veramente campionessa mondiale di lancio dell'ANSA, ogni volta che ci sono dati economici vagamente positivi, ieri ha emesso questa agenzia dicendo che il debito diminuisce, il debito. Ora i dati diminuisce il debito. Ora i dati rivisti da Istat parlano molto chiaro, cioè nel 2013 debito PIL 129%. Nel 2014 131,8, nel 2015 132,2. Ha letto in realtà, male il titolo. No, in realtà è diminuito l'aumento, cioè il debito PIL è diminuito meno di quanto inizialmente stimato. Però restiamo sempre in condizioni, io come scrivevo stamattina, ci sono quelli che non sapendo far di conto fanno politica. Ci ho detto... Prendiamo atto con grande gioia che anche la felicità è una crescita dello 0,1% del PIL, anche se in un anno quasi recessivo. Come osservava ieri il capo economista su Twitter, il capo economista di Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, abbiamo circa 7 miliardi di PIL in più, il che vuol dire, per noto e ovvio trascinamento, che probabilmente non solo il PIL del 2015 è risultato di un decimo più piccolo, ma anche quello del 2016. Già. Ma questa è la conseguenza logica, sono numeri. E, che altro dire, Renzi continua, adesso c'è questo spin lanciato da Renzi, facciamo come Obama. Nel senso, Obama ha combattuto l'austerità, però io vorrei notare, io mi ricordo perfettamente cosa successe all'inizio della presidenza Obama. Non solo aveva contro i repubblicani, ma aveva contro anche i cosiddetti democratici centristi, che gli fecero una opposizione strenua al punto che lo stimolo degli Stati Uniti fu piccolo, contenuto, durò veramente poco e andò a morire dopo pochi mesi, poco meno di un anno. Ricordo questo episodio perché ad esempio... Vedo che non hai letto Federico Rampini su Repubblica di oggi. No, non ho avuto tempo, diciamo. Perché alla fine, diciamo, quello stimolo morì di morte naturale, e siccome gli Stati Uniti sono un paese molto ben autoregolato, la prima potenza economica mondiale, i paragoni purtroppo lasciano il tempo che trovano, il resto lo fece la capacità di reazione dell'economia. Però lo stimolo fu piccolo, temporaneo, al punto che io ricordo la assoluta contrarietà, la vera e propria incazzatura di Paul Krugman, che passò un anno e mezzo a scrivere: lo stimolo è troppo piccolo, se finiremo male sarà colpa vostra. Quindi vabbè, adesso facciamo come Obama, dobbiamo sempre fare come qualcuno in questo paese. Intanto io volevo suggerire un dato e un elemento. Allora, facciamo piccola... Visto che hai citato l'America, solo sì, una cosa, per chi può, che è interessato a capire un po' meglio la lezione americana, oggi c'è un bellissimo fondo di Andrea Montanino. Andrea Montanino, tra l'altro, è un ex dirigente del Tesoro italiano che adesso si è trasferito negli Stati Uniti, non ne vuole sapere più niente dell'Italia, sulla Stampa, che lo mette come editoriale, e prima poi gira pagina 23, per sottolineare come nessuno si occupa della campagna americana, che è tutta intesa a capire i movimenti degli occhi della Clinton se c'ha l'Alzheimer e quante ne spara invece Trump dall'altra parte, però c'è il problema proprio del debito americano, perché il debito americano, ricordatevi che negli Stati Uniti c'è un limite di debito votato dal Congresso che addirittura è sul limite monetario, non è neanche percentuale del PIL, ecco, ed è stato posposto perché se ne parla a marzo il prossimo presidente, e conferma quello che stava appunto dicendo Mario. Chiuso sì, la parentesi. Una cosa, io invito gli ascoltatori a focalizzarsi su un solo numero se vogliono sapere come sta andando l'economia di questo paese, il rapporto debito-PIL, perché se il rapporto debito-PIL non scende, ma tende a salire, sia pure in maniera frenata, come sta accadendo da un paio d'anni a questa parte, vuol dire che le cose non stanno andando bene. Vuol dire che comunque la crescita è insufficiente, malgrado quest'anno, nei primi sette mesi dell'anno, il Tesoro ha emesso titoli di Stato a un rendimento medio dello 0,55%. Già. Cioè, se il costo dell'emissione di nuovi titoli di Stato per qualsivoglia motivo dovesse impennarsi, noi finiamo veramente male. Tra l'altro, diciamone un'altra, visto che passiamo il tempo in questo paese a difendere le banche, quando si dice giù le mani dai titoli di Stato che sono in pancia alle nostre valorose banche, perché noi riusciamo a essere nazionalisti anche su questo, è una cosa assolutamente surreale. Ricordate, in caso di aumento del rendimento, cioè dei titoli anche che sono in portafoglio alle banche, il patrimonio netto, i quozienti di capitalizzazione delle banche italiane prendono una non lieve segata, e quindi torniamo nei guai. Quindi siccome tutto si tiene, pare che siamo al grido libertà, libertà, facciamo deficit, giù le mani dal nostro valoroso deficit, eccetera, vi ripeto e vi invito caldamente, guardate come evolve il rapporto debito-PIL. Se quello piega, siamo al sicuro e possiamo anche ridurre veramente le tasse. Se resta stabile o tende ad aumentare, siamo e restiamo nei guai. Allora, tradotto dalla casalinga di Voghera è: stiamo spendendo più di quello che guadagniamo. Due considerazioni brevissime. Mi sono preso i numeri Italia-Spagna per capire. Italia-Spagna, adesso non è il solito dibattito che le riforme non le riforme, no, semplici numeri, perché 2000-2015 il PIL della Spagna a fine 2015 era superiore, malgrado la botta della crisi, a quello del 2000 del 23,5%. Quello dell'Italia è superiore al 0,5%. Questo dall'idea dell'ordine di grandezza, per capirci. Se andiamo a vedere la produttività, ecco, nella produttività, e ci fermiamo solo tra 2008, quindi crisi, oggi, ecco, la produttività spagnola è dell'11,7% superiore a quella del 2008, oggi la nostra 0,4%. Questo come... per capire sempre qual è il ritmo. Sì, ecco, c'è da dire anche che la Spagna è partita da una produttività molto più bassa di quella italiana. Perfetto, e c'è da dire che però nel frattempo ho dovuto, come dico a Napoli, sfraire, cioè mettere le mani nella mo di due enormi bolle, perché c'era la bolla immobiliare, perché è turnaround sul modello. Era proprio perché loro avevano... c'era un problema bancario che loro però hanno affrontato con un punto di vista e strumenti leggermente diversi dai nostri, per così e nel dire. Momento diverso soprattutto. Soprattutto nel momento diverso. Comunque. Però Mario, spiega meglio la cosa dei titoli di Stato, perché la gente pensa che, cioè non si rende conto del fatto che se aumentano i rendimenti, il valore dei titoli che hanno scende. Esatto. Ed è questo il meccanismo che porterebbe dei problemi nelle banche, perché alla maggior parte delle persone, sapete che io, a me qua tocca fare la casalinga di Voghera, visto da dove vengo. Allora, la maggior parte delle persone non si rende conto del fatto che se emettiamo dei nuovi titoli che hanno un rendimento più alto, quelli che hanno loro scenderanno, si deprezzano come valore, se se ne vogliono liberare, se ne rendono conto subito, o se lo tengono fino alla fine, ma se hanno bisogno di soldi e lo vendono vale meno. Comunque sia, ci sono, anche se tu lo tieni e se non è immobilizzato fino a scadenza come classificazione contabile, ma è disponibile per la vendita, devi prendere la minusvalenza e questo ti impatta sul conto economico, esatto, e sullo stato patrimoniale. A proposito di banche, scusate, perché noi iniziamo a ricevere, è un po' inevitabile, mi sorprendo che solo adesso ci scriviate, ma comunque prendiamo atto delle vostre preoccupazioni, diverse lettere di obbligazionisti MPS. Questa settimana i giornali hanno rilanciato voci sul fatto che, ma come oramai si pensa a grandi fondi sovrani, io un po' ridacchiato, il fondo così, ho piegato la bocca perché la sentiamo questa storia in maniera sistematica e ricorrente. Quello che è evidente è che dopo l'addio di Viola e Tononi, ma insomma nella sostanza, come vi avevamo detto, la macchinosità di ciò che è stato deliberato era un po' difficile che andasse a perfezione sinergica come i meccanismi dell'orologio svizzero. E quindi, cari ascoltatori, noi non è che vi possiamo dire se avete questa o quella obbligazione, preoccupatevi. Però, Mario, torniamo sul punto, perché tu l'hai spiegato molte volte, ci sono i post di Mario, abbiamo fatto pezzi di trasmissione. Guardate che non è che non sappiamo come va a finire se non si trova il capitale, i tempi dell'operazione per il trenching dell'NPL sono molto più lunghi, come era inevitabile, del previsto, eccetera eccetera. Finisce in un solo modo, sì, no? Sì, sì, che è quello che segnalavo settimana dietro, cioè un bail-in soft, quindi le obbligazioni subordinate vengono trasformate forzosamente, però non volontariamente, in azioni per, diciamo, la metà del fabbisogno di ricapitalizzazione, e l'altra metà la può mettere il Tesoro, perché, esatto, i principi degli aiuti di Stato legittimi richiedono una sorta di partecipazione paritaria di principio, esatto, tra i privati e il pubblico. La componente privata di partecipazione si sostanzierebbe nel fatto che i privati obbligazionisti subordinati diventano azionisti. Quindi, se no, noi non stiamo facendo del terrorismo, no, sia ben chiaro, c'entra, perché, esatto, allora io parlo sempre con grande attenzione, cioè non sono come molti blogger che scrivono penitenzi agite, no, eccetera, no, no, quelli ce n'è l'esempio, prima o poi finiranno anche loro, non è un problema, così si renderanno conto che la vita reale sta altrove. No, io dico semplicemente questo: possiamo cercare sicuramente l'investitore da ancoraggio, l'anchor investor. Per carità, va benissimo, sì, può, sì, essere il Qatar, l'Oman, la Malaysia, Brunei, Tonga, quanto volete voi. Se però non riesce questa operazione, qualcosa bisognerà fare. Non chiaramente mandare in risoluzione la banca, perché la banca non sta perdendo, no, non è in dissesto, la banca ha una, certo, piccola ma importante redditività operativa, esatto, apprezzate il fatto che non sto facendo terrorismo, no. E però a un certo punto, se il mercato non mette i soldi, quei soldi devono venire dal mercato per altre vie, cioè dai creditori che diventano azionisti. E diciamo, la trattativa riservata, di cui abbiamo qualche traccia, chi di noi che segue queste cose, più da Bruxelles che da Roma, vorrebbe che man mano che si avvicina a questa ipotesi residuale, ma a quel punto risolutiva, che deve rispettare le norme europee, diciamo, c'è una trattativa per vedere di accrescere la quota di intervento pubblico in maniera non paritaria rispetto a una quota di conversione che, come ovvio, il MEF vorrebbe non obbligatoria ma in qualche maniera volontaria. Questo è quello che vi possiamo dire, però che si vada lì in quella direzione è praticamente inevitabile. Intanto questa settimana il fondo di garanzia si è preso anche l'aumento di capitale che era necessario per Cesena. Andiamo all'estensione di questo meccanismo cooperativo. È un meccanismo cooperativo che il vertice bancario istituzionale italiano dipinge come un modello, ma che però comporta un prezzo, perché il prezzo è intanto l'annullamento del premio al minor rischio che c'era in tutte le banche più strane nel nostro paese. È l'infezione che si diffonde. B, l'andamento generale di questa cosa che si chiama borsa italiana, per quel poco che possa valere, se andate a vedere dall'inizio dell'anno, siamo in paragone a quello di tutti i paesi avanzati a multipli di perdita, e il problema fondamentale è questo, perché viene dal bancario, perché non è che, sì, sì. Quindi noi stiamo imponendo un prezzo significativo, io non voglio dire enorme, molto significativo all'atteggiamento cooperativo dei vertici del sistema bancario italiano. Poi, questo è un fatto. Oscar, ricordiamo che il 30 settembre scade la deadline, che è un penultimatum, per vendere le quattro non troppo good bank. C'è la trattativa per la proroga. Che verrà prorogato, chiaramente, però i numeri quelli sono. Anche se voi fate lo spezzatino, cioè la minusvalenza che andrà ad abbattersi in testa al sistema bancario italiano sarà drammatica per banche che rappresentano l'1% degli attivi di sistema. Quindi rendiamoci conto della pericolosità e del fatto che chiunque continui a dire che la soluzione consortile, quindi del sistema bancario che si mette in cordata e salva le banche deboli, è la via per la salvezza, è sbagliata. Questa idea è sbagliata, la realtà la sta confutando. Quindi spero che anche all'ABI facciano una riflessione, oltre a dire che c'è un attentato al principio costituzionale di difesa del risparmio. Non mi pare, vista l'intervista che c'è oggi di Patuelli su MF. Ma comunque, torniamo tra un minuto e andiamo sul diritto di sciopero. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Sappiamo che le cose vanno male, più che male. È la follia. È come se tutto dovunque fosse impazzito, così che noi non usciamo più. Ce ne stiamo in casa e lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo. E diciamo soltanto, almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti, per piacere. Lasciatemi il mio tostapane, la mia TV, la mia vecchia bicicletta. E io non dirò niente, ma lasciatemi tranquillo. Beh, io non vi lascerò tranquilli. Io voglio che voi vi incazziate. Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate. Non voglio che scriviate al vostro senatore perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non so cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione, i russi e la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi. Dovete dire sono un essere umano. Porca puttana, la mia vita ha un valore. Allora, sapete che dalla ripresa post-estiva noi usiamo questo passaggio di Quinto Potere per lanciare dei temi, non con lo stesso taglio di tipo, però insomma, ci sono delle cose che noi non comprendiamo, per così dire. Ecco, una di queste si è puntualmente riproposta in questa settimana, cioè lo sciopero che ha portato all'annullamento di più di 200 voli in Alitalia, uno sciopero è relativo a pendenze di una trattativa interna. Sapete che Alitalia fino alla fine del 2015 continuava a perdere 500.000 euro l'anno, è sottoposta a pressioni crescenti dallo sviluppo non solo delle low cost in Italia, ormai le low cost in Europa sono arrivate anche sull'intercontinentale con Norwegian, Pegasus, eccetera. Norwegian ha fatto questo bellissimo ieri pubblicità in cui faceva la pubblicità dei suoi voli transatlantici per 149 euro dicendo Brad Pitt is free. Quindi, sono andata però hai visto che anche l'Italia ha risposto, visto che poi sì, infatti. Allora, l'Italia è in questo sforzo di tornare all'utile ed è uno sforzo in cui chiede a tutti responsabilmente di fare la propria parte, e del resto tutti ci ricordiamo che cosa per anni è costata l'Italia pubblica e il suo salvataggio anche, e quindi mi sembra una posizione comprensibile, no? Che l'azienda dica: ragazzi, dobbiamo stare attenti ogni giorno ai nostri margini per tenere alto il nostro yield. Invece, anche se i confederali hanno firmato questa intesa che è relativa ad alcune questioni interne del personale di volo, se devono pagare anche qualche cosa, sia pur simbolicamente, quando usano gli aerei della compagnia e così via, alcuni sindacati minoritari, tra cui ANPA e ANPAV, non hanno firmato e hanno indetto lo sciopero. E la questione che ci poniamo noi è: quanto ancora deve passare prima che la promessa che più volte la politica ha fatto l'anno scorso a fine aprile, il 30 aprile 2015, Del Rio promise, stava partendo l'Expo, promise che il governo avrebbe insieme alla maggioranza modificato la legge sul diritto di sciopero in identificando rappresentanze minime, tetti di rappresentanza dei sindacati in questi settori per poter indire sciopero, e lui disse esplicitamente, e anche prevedendo il voto preventivo dei lavoratori, ci vuole in questi settori per tutelare il diritto della collettività e la mobilità pubblica nel trasporto, che votino il 50,1% dei dipendenti. Ecco, questa roba qua è rimasta sempre lettera e carta, perché nella sostanza tutto è come prima. E per la prima volta, fine della mia brevissima introduzione, abbiamo visto anche un amministratore delegato, mi piace dirlo, perché l'amministratore delegato, l'australiano che Etihad ha messo la testa dell'Italia, era tra i viaggiatori a spiegare personalmente, a dare le scuse della compagnia, a spiegare che come l'azienda aveva tentato di mettere in piedi tutto ciò che era possibile. Non per a caso è australiano. Non a caso sarà australiano, ma non a caso l'hanno scelto, e bisogna anche sottolineare le cose positive. In altri paesi, per esempio in Francia, in Francia. La Francia, che non mi risulta sia un paese dove si sciopera poco, nel settore pubblico soprattutto. Però in Francia, per esempio, dove il diritto di sciopero non appartiene agli individui, non appartiene agli individui come da noi, perché da noi è così, ma è appartiene ai sindacati, allora, lì bisogna comunicare giorni prima quanti scioperano. Qui non si può fare, perché siccome è individuale, secondo la nostra giurisprudenza, il diritto, ovviamente nessuno può dire dall'Italia in anticipo sciopereranno tot e regolati, e questo significa naturalmente che l'Italia deve annullare più voli di quanto in realtà poi magari l'adesione allo sciopero implicherebbe, perché non lo puoi sapere prima per pianificare. Certo. Faccio solo questo esempio per capire. Allora, per aiutarci a capire da una parte cosa si può fare e dall'altra a capire anche meglio di che cosa sta parlando in Parlamento. In Parlamento, in teoria, c'è una proposta in tal senso che sta bollendo di fronte a ben altre priorità. Abbiamo due ospiti. Abbiamo innanzitutto il presidente dell'autorità di garanzia sugli scioperi, cioè Giuseppe Santoro Passarelli. Buongiorno e grazie Buongiorno. Di essere con noi. E poi Marco Menegotto, che è un ricercatore di relazioni industriali proprio su questo tema. Buongiorno e grazie Menegotto. Buongiorno, grazie a voi. Allora, presidente Santoro Passarelli, non so se nella mia sintesi ho detto tecnicamente qualcosa che non va, ma lei in realtà che poteri ha? L'autorità che cosa può fare quando avvengono cose di questo genere, cioè sindacati minoritari che comunque indicano lo sciopero? Questo avveniva ogni venerdì a Roma con l'ATAC per mesi e mesi, ma avviene in grande su Alitalia, e voi in quel caso che potete fare? Guardi, lei ha messo molta carne al fuoco e ha fatto bene, ma le questioni sono molteplici. No, intanto bisogna chiarire un punto, che in Italia, nell'ordinamento costituzionale italiano, in base al principio della libertà sindacale, e cioè dell'articolo 39 della Costituzione, c'è la possibilità per tutti i sindacati di proclamare lo sciopero. Non sono previste soglie minime che consentono, che legittimano i alcuni sindacati a proclamare lo sciopero. È evidente però che il problema che lei pone, e cioè quello di selezionare alcuni soggetti sindacali, è un problema che si pone, è un problema che si pone e che bisogna risolvere, e che in parte le organizzazioni sindacali cercano di risolvere attraverso accordi. Cioè, lei nel suo articolo richiamava il testo unico che riguarda altre questioni, non la proclamazione dello sciopero, però è un testo che può aiutare, perché stabilisce i criteri che individuano i sindacati rappresentativi, quelli cioè non più rappresentativi, ma quelli che almeno raggiungono una soglia di rappresentatività. Cioè, diciamo che da 2014 c'è un grande accordo interconfederale, dopo anni di trattative tra Confindustria e i sindacati, che stabilisce le soglie di rappresentanza per godere dei diritti dei sindacati, per sedersi ai tavoli, trattare, e per l'esigibilità dei contratti in tutto il settore privato, di cui si mettono i primi passi con la riforma Madina della PA per fare qualcosa di simile per le rappresentanze, per le soglie di rappresentanza nel mondo dei dipendenti pubblici. Però questa storia non tocca le quote minime di rappresentanza per poter indire gli scioperi nel settore pubblico e dell'offerta dei servizi pubblici, ed è di questo che bisogna occuparsi, no? Posso finire la frase e il concetto? Si potrebbe partire da quella base per prevedere, non tanto tramite un accordo, anche se è lo strumento preferito dai sindacati, ma attraverso un intervento legislativo, quali le soglie che consentono ai sindacati di proclamare lo sciopero. Perché dico non tanto attraverso un accordo sindacale? Perché è ovvio che i sindacati che non sottoscrivono quell'accordo poi non saranno vincolati a rispettare il medesimo accordo, e per questo sarebbe più opportuno la legge. Però uso il condizionale, perché naturalmente quando lei parla di poteri della Commissione, ha fatto bene a richiamare, questo non rientra certamente tra i poteri della Commissione, è l'organo legislativo, il Parlamento, che deve individuare poi, innanzitutto attraverso un accordo tra le forze politiche, se ci sono quindi le premesse politiche per intervenire con legge. Bisogna dire che le organizzazioni sindacali da sempre guardano con sospetto, comunque con preoccupazione, l'intervento legislativo. Del resto, se lei pensa che la legge 146 del 90 è intervenuta dopo 50 anni dalla Costituzione, perché prima non era pensabile, ipotizzabile un intervento legislativo per la appunto contrarietà delle organizzazioni sindacali, che comprensibilmente certe volte vedono limitata la loro attività da un intervento legislativo. E lo so, però noi da anni e anni vediamo invece finire, che il diritto è limitato a quello nostro. Non parlo più, no, però è ovvio che siccome la commissione di garanzia che io ho l'onore di presiedere deve contemperare gli interessi dei cittadini, gli interessi degli utenti con gli interessi dei lavoratori, è evidente che noi auspichiamo una soluzione a questo problema che lei ha sollevato e che è un problema sicuramente importante, soltanto che lo può risolvere la politica, a meno che non si mettano d'accordo tutti i sindacati. No, non si mettono d'accordo, è ovvio, perché oppure la legge. I sindacati minori fanno le loro campagne di adesione esattamente con scioperi rispetto a intese che non hanno firmato, cioè questo è chiarissimo da anni. Il problema è che ci va di mezzo l'economia nazionale e i diritti delle persone e delle aziende, ecco, non solo la mobilità, ma innanzitutto la mobilità, visto che di questo che parliamo. Allora, dopo il minuto di pausa, vediamo con Marco Monegotto di capire se quello che bolla in Parlamento va nella direzione che noi auspichiamo, oppure se invece è una bolla nell'acqua. Tra un minuto. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Della belva. Eccoci qua, ma perché, cari ascoltatori, perché noi con un paio di conti della belva ve lo chiediamo, perché in 17 paesi europei su 28 per indire uno sciopero, e stiamo parlando in particolare scioperi nei servizi pubblici, cioè quindi nel settore pubblico e offerta dei servizi pubblici, perché in 17 paesi su 28 è attualmente previsto la disciplina del voto? I dati vengono dalla piattaforma europea del CEST, quindi i sindacati europei, non sono dati padronali, perché questa è la radio di Confindustria. Tra l'altro Confindustria su questo sta abbastanza zitta, quindi siamo noi che ce ne occupiamo. Detto questo, ma perché in 17 paesi su 28 si vota in maniera diversa, con tetti diversi per poter indire gli scioperi, e da noi questa cosa viene considerata come un attentato alla libertà? Perché dobbiamo continuare a pensare che non va contemperato il nostro diritto con quello di proclamare gli scioperi, ripeto, soprattutto in questi settori? Allora, c'è una riforma, in teoria quella a cui faceva riferimento ad aprile del 2015 il ministro Delrio, quando diceva ce ne occuperemo subito, la risolveremo immediatamente, perché la moratoria di Expo deve diventare il modello. Ricordate che a Milano i sindacati si impegnarono in confederale a non fare sciopero per Expo. La cosa non ha funzionato a Roma per il cosiddetto giubileo, e come si vede arrivano scioperi come all'Italia. Vediamo se questa riforma è davvero quello che ad aprile prometteva il ministro Delrio, oppure no. Allora lo chiedo a Marco Monegotto, che appunto fa il ricercatore nelle relazioni industriali proprio nel settore pubblico. Questa riforma promette qualche cosa oppure non è su un binario morto secondo lei? La riforma giace in realtà a più riprese in Parlamento già dal 2009, cioè il senatore Sacconi propose un primo testo già nel 2009 che poi non ebbe seguito. Nel febbraio 2014 lo ha riproposto e anticipava già quelle che poi sono state le dichiarazioni del ministro Delrio dell'anno scorso in concomitanza con lo sciopero macchinisti ATAC, in sostanza. E si tratta di un disegno di legge che delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi con lo schema della legge delega, dunque, che tentano appunto di introdurre degli strumenti nel silenzio e nell'inattività dei sindacati, come diceva prima il professore, introdurre appunto strumenti che possono in qualche modo contemperare il diritto allo sciopero tutelato. Ma l'identifica oppure dice vedete voi, cioè questi strumenti certo, quali sarebbero? Certo, si parla di un grado di rappresentatività delle sigle sindacali superiori al 50% nel settore di riferimento, in questo caso trasporto aereo, per poter indire uno sciopero autonomamente o con le altre sigle sindacali che si... Quindi tradotto nel caso concreto, questa settimana ANPAC, ANPAP, eccetera, non avrebbero potuto indire lo sciopero. Ecco, perché sono minoritari. Benissimo, avrebbero invece potuto indire un referendum tra tutti i lavoratori dell'azienda di riferimento, le organizzazioni sindacali che messe insieme tra loro superino il 20% della rappresentatività del personale. Cosa che quindi capita su queste che hanno fatto lo sciopero in Italia. Tutto sommato sono più del 20%, quindi avrebbero potuto dire lavoratori, votiamo prima, se a maggioranza si decide facciamo sciopero. Benissimo, tutti i lavoratori, comunque parte di questi, partecipano al referendum e se il referendum preventivo supera ottiene un voto favorevole pari almeno al 30% dei lavoratori interessati, allora a quel punto lo sciopero anche di sigle minoritarie diventa legittimo e segue poi le regole della 146 del 90, che comunque questo è una non buona sono legge. Molto d'accordo, no, infatti ripetiamolo per chi non fosse un tecnico, la 146 comunque fissa delle garanzie e delle procedure che sono quelle che impediscono in Italia di avere per esempio gli scioperi ferroviari di settimana che sono avvenuti in Germania o avvengono in Francia, esatto, da noi non è sono l'esempio possibili. Calzante, esatto. È l'esempio calzante, però quindi è una buona legge che ha bisogno di una riforma in particolari settori che sono quelli critici. La libertà di circolazione delle persone è tutelata dalla Costituzione ma anche dai trattati europei, si tratta di contemperare questo tipo di sciopero, lo si fa attraverso delle soglie. Posso chiederle, scusi, io capisco quello che ci ha spiegato, dice per i sindacati minoritari è possibile indire un referendum, in quel referendum eccetera eccetera, però se anche prendono solo più del 33% dei voti possono farlo, perché una soglia così bassa, perché non il 50,1? Questa è una soglia come quella del 50% per andare in autonomia, come quella del 20% per poter indire il referendum, che sostanzialmente è nella disponibilità del legislatore nel momento in cui fa una legge che contempera dei diversi diritti costituzionali. Quindi sulle soglie si può ragionare e sindacare nell'attività nell'iter legislativo in Parlamento, ma non abbiamo dei vincoli preordinati. L'impressione secondo i lavori parlamentari, secondo lei, è che c'è assegnata una priorità politica da parte della maggioranza del governo a questa norma, o è lì che galleggia? Secondo me è un po' lì che galleggia, nel senso che il disegno di legge è stato proposto in questa legislatura già nel febbraio 2014. I problemi di ATAC l'avevano riportato a galla, esattamente. E adesso, siccome Roma è ferma, quindi adesso, non ci siamo proprio. Adesso il senatore Sacconi ha, che è, tra l'altro è anche presidente della Commissione del Lavoro del Senato, quindi ha un ruolo di vertice che riesce anche a livello politico a influenzare, a spingere. Esatto. Adesso sembra di nuovo sveglio. Vediamo, noi comunque continueremo ad adoperarci, perché cari ascoltatori, i diritti di noi tutti ci stanno a cuore, per così dire, e non pensiamo che il diritto del lavoratore sia sovraordinato. Ci sta a cuore anche quello, però delle regole per tutti. Dopo il Giornale Radio torniamo. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Dylan Dog sta arrivando su Radio 24. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. E Eccoci tornati qui in diretta con il compagno di Conte da Belva, Mario Seminerio, Renato Cifarelli. Il rumore che sentivi ero io che facevo la Belva. Sì, no, in effetti per un secondo mi sono girato, ho detto ops. Ragazzi, posso dirvi adesso, io invito i nostri ascoltatori oggi, per esempio, io amo molto, questo è il mio giudizio personale, il modo in cui Ferruccio De Bortoli è tornato a scrivere negli ultimi mesi sul Corriere della Sera, perché, per così dire, non essendo più direttore, un po' più libero, gli consente di essere più fedele allo stile dell'ultimo editoriale, quello con cui lasciò la direzione, che fece molto parlare, e i fatti successivi si incaricarono anche di confermare perché parlava di un certo odore stantio di massoneria e così via in alcune vicende tra bancarie e politiche italiane, ed è fedele, e finalmente oggi può essere fedele a quello stile, uno stile più tagliente, secco, sempre molto equilibrato, sempre molto rigoroso, però andando diritto al punto. Oggi questo suo editoriale che c'è sul caso Boeri Imps, per esempio, secondo me coglie uno dei punti italiani, perché non si capisce bene. Dopo la nomina, lo sapete, da parte del governo di Boeri alla presenza dell'INPS, anche per riparare il fatto che all'inizio Renzi gli aveva detto che lo voleva il governo e poi non è stato possibile all'INPS, nel tempo l'insofferenza della maggioranza, del PD e anche un po' del governo per reiterate proposte che vengono dall'INPS in materia previdenziale, per esempio sul ricalcolo per le pensioni alte, eccetera, eccetera, hanno creato un'insofferenza. Adesso però c'è un problema sostanziale, perché lo scontro sulla governance tra il presidente e il direttore generale, in un'azienda in cui non c'è un CDA, perché questo è in quell'azienda passano più di 400 milioni di roba e non c'è un CDA. Ecco, questa è una questione di fondo. Viva Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, che con rigore, misura, equilibrio dice: caro governo, però deve intervenire e farci capire, perché è troppo rilevante perché questa questione sia lasciata al gossip o al colore. Non è né gossip né colore, è una questione di sostanza, visto il rilievo che l'INPS ha nel welfare, nei conti pubblici italiani. Ecco, mi associo. Allora, sentiamo qualcuno di voi come la pensa sulle vicende che abbiamo intanto trattato prima, e anche però se ce ne sono sulle Olimpiadi di Roma. Cominciamo dalle telefonate. Franco dalla provincia di Trieste. Franco, prego. Sì, buongiorno Giannino. Buongiorno. Ma la mia opinione è che c'è come una, sospensione della democrazia. Però vengono fatte delle decisioni delle persone, quali può essere il problema il fatto delle Olimpiadi a Roma, le persone di Roma non vogliono, i cittadini di Roma non vogliono le Olimpiadi, e poi si decide invece che le vogliamo fare. È un po' come è successo per la legge del finanziamento dei partiti: nessuno voleva il finanziamento dei partiti, poi il finanziamento dei partiti lo vogliono fare. La stessa cosa per il diritto di sciopero. Non è possibile che anche cose magari, diciamo, giuste, che possono essere rivendicate, ma da una minoranza, obblighino poi una maggioranza a subirne le conseguenze. Mi sembra una situazione paradossale. Tutto esatto. Qui, null'altro. Però buon senso. Paolo da Parma. Paolo, prego. Io la vedo un po' diversamente. Dica. In parecchie aziende ci possono essere tipi diversi di lavoratori e di contratti. Ad esempio, alcuni dipendenti, altri sono assunti da cooperative, oppure nella RAI c'erano i vecchi giornalisti con contratti molto buoni e quelli nuovi con condizioni pessime, per cui non è detto che siano tutti nella stessa situazione. Certo. O che ci sia solidarietà. Certo. Quindi chiunque deve poter far valere i propri diritti. Grazie. Sì, ma ripeto, nel proprio diritto c'è minoritariamente quello di bloccare un intero segmento di offerta dei servizi? Questo è il punto. Come mai nella stragrande maggioranza dei paesi ci sono meccanismi che lo impediscono, lo regolamentano? Ecco, questo è, noi ci limitiamo a sollevare questo punto. Altrimenti, ripeto, poiché il diritto è individuale, capisce? Lei col diritto individuale di sciopero, ripeto, in tanti altri paesi è affidato ai sindacati, in teoria chi svolge una funzione essenziale può fare lo sciopero individuale e bloccare, se è in una funzione apicale o tecnicamente necessaria, un intero impianto, tutto. È giusto secondo lei? Secondo me no, è molto discutibile, ecco, per essere chiari. Romano da Roma? Buongiorno. Guardi, io vorrei fare due premesse. Sì. Che non sono un navigante e che sono un suo estimatore, perché la sento sempre anche di notte, eccetera. Solidarietà. Però mi sembra che si stia facendo una trasmissione senza fare intervenire anche l'altra parte interessata. Scusi, no, perché non sentite anche qualche navigante che dica la sua? Scusi, no, le spiego. No, ma giusto. Però noi qua oggi non ci stiamo occupando della vicenda di Alitalia. Cioè, non ci stiamo occupando di capire se è giusto far pagare o meno almeno un euro per il personale navigante che utilizza i vettori della società quando si trasferisce usandoli. Che è uno, lo dico per i nostri ascoltatori, dei temi su cui è aperto il contrasto. Non solo questi, non vorrei ridicolizzare. Noi non ci stiamo occupando della vertenza sindacale. Noi ci stiamo occupando del fatto se in Alitalia, nell'offerta del servizio pubblico, sia giusto continuare ad avere le regole attuali. Le regole attuali dicono che i sindacati non hanno bisogno di soglia di rappresentanza per poter dire sciopero. E siccome però lo sciopero è diritto individuale nel nostro paese, non devono neanche, quindi i lavoratori, non si sa, non devono comunicare come in Francia quanti aderiscono prima, e quindi le aziende non si possono regolare. A quel punto devono tagliare al massimo possibile i servizi andando spannometricamente, e ci va di mezzo il diritto della gente. Quindi noi non... Se avessi parlato la vicenda all'Italia e avessi chiamato l'azienda, lei avrebbe ragione, ma qui stiamo sollevando un principio che riguarda invece il diritto pubblico e le regole. Quindi grazie dell'osservazione, ma insomma, che dicono invece sugli SMS, Mario? Devo dire che sono molto tranquilli, placidi, arrivano ogni tanto aggettivi del tipo perché siamo ancora un paese sostanzialmente comunista, poi l'aggettivo comunista si spreca oggi. C'è un ascoltatore che dice: in Germania votazione 70%, esatto. Si fa sciopero, se no non si fa. Esatto. C'è una punteggiatura un po' avventurosa, ma penso che volesse dire quello. Quindi nulla di particolarmente rilevante. Anzi, c'è un ascoltatore, Carlo, che dice, tornando al discorso dei rendimenti bassi, quando sì. I rendimenti obbligazionari erano alti, io cambiavo auto ogni 5 anni. Oggi ho una piccola utilitaria da 12 anni. I rendimenti non sono crollati da 12 anni, ma vabbè, diciamo, alla fine questa è una cosa che è rilevante. Una piccola risposta, visto che stiamo andando indietro nel tempo, all'ascoltatore Paolo, che mi dice: seminario, debito PIL e debito sono due grandezze diverse, e lo scrive in maiuscolo. Allora, Paolo, debito PIL è un quoziente, per gli amici rapporto espresso in percentuale, quello è aumentato. Il debito, in quanto stock come valore nominale, è aumentato pure quello. Una volta che abbiamo appurato che sono due grandezze diverse e che sono aumentati entrambi, la dichiarazione dell'onorevole Fregolent resta quello che è, cioè falsa. Falsa, esatto. È inconfutabile questo. Lasciatemi dire, cari ascoltatori, questa settimana visto con YouTube, non ero in diretta a guardare la trasmissione televisiva, un talk televisivo ospitava un vice ministro del MEF e Borghi della Lega, che gli chiedeva al vice ministro del MEF: senta, ma lei sfida i nostri telespettatori in diretta, ma se per caso la BCE annullasse con un colpo di dito sul computer di Mario Draghi il trilione di titoli pubblici che ha in pancia per cui la BCE, che cosa avverrebbe? Domanda ovviamente provocatoria da parte di chi sostiene che bisogna procedere a cose di questo genere, cioè Borghi. La mia perplessità è stata nel vedere che mi aveva sollecitato, mi aveva mandato YouTube, che il vice ministro del MEF non era in grado di capire la domanda, forse è imbarazzato, e poi ha risposto di fronte alla crescente e a quel punto giustificata ironia di Borghi, che ovviamente serviva al suo punto di vista sfottendo il vice ministro, ha risposto: sarebbe una cosa di esclusivo valore statistico senza importanza. Allora, io ora brividito e mi sto trattenendo, perché insomma, e anche in questo caso una persona che stimo, un amico, ma insomma, un vice ministro del MEF che non sa per rispondere in televisione a una domanda come quella che Borghi fa dal suo punto di vista, e cioè che non gli venga in mente che a quel punto in pochi secondi sui mercati secondari, a proposito di chi ha un'obbligazione pubblica, se non volesse disfare misurerebbe il calo bestiale del valore sul mercato secondario, perché significa incorporare un default per quota parte di tutti i paesi della BCE, se al punto il ditino di Draghi facesse quello. Primo, secondo, a ogni asta di ciascuno di quei paesi per le nuove emittenze si incorporerebbero moltiplicati i valori dello spread, quindi sarebbe, questo per dire solo le cose più elementari. Caro vice ministro del MEF, ma come puoi non rispondere a una domanda di quel tipo? Anche per questo penso che molti oramai si convincano che il problema sia l'annullamento del debito o uscire dall'euro da solo. Cioè, però se ne sta discutendo, sì. Ad esempio in Giappone, dove la Bank of Japan possiede Ormai una l'esempio quota che faceva impressionante, Borghi era esattamente esatto, quello. Ma anche nel caso della Bank of England, ad esempio Lord Turner, Adair Turner, che è stato un regolatore fino a qualche anno fa, a intervalli regolari, torna su questa tesi e dice: ma visto che c'è questo stock di debito incoercibile, siamo sicuri che non arriveremo al punto di premere un pulsante o con un tratto di penna cancellarlo? Questo è un problema, cioè un problema, questo è un tema affascinante che chiaramente viene gestito. Bisogna saperlo maneggiare però anche rispetto al messaggio alla popolazione, no, perché già, scusami, noi già abbiamo esponenti politici che dicono non può esistere una crisi dell'euro perché l'euro è una moneta, se ne può stampare quanta se ne vuole, qui non farò nomi ma solo cognomi, Sibilia, che ormai è diventato il mio comico preferito del Movimento 5 Stelle. Questo ti indica quanta confusione c'è nella testa delle persone. No, vi dico ancora questo, ma questo però accresce le responsabilità di chi come noi la pensa diversamente, perché dobbiamo spiegare quello che avviene, perché un conto è che il tema ci sia, un altro conto è se chi sostiene quella tesi ti fa una domanda in diretta televisiva e tu dici no, beh, se si annulla è su una questione statistica, come no. Allora, iniziano, alcuni amici professionisti ci hanno segnalato questa settimana che iniziano a ricevere lettere di questo tipo, questo per capire quanto si diffonda la convinzione, e molta gente in buona fede, io rispetto i punti di vista, anche se non li condivido. Allora, un professionista questa settimana ci ha segnalato, lavora per una società di lease bancaria, in un gruppo bancario, e un cliente non onorava le rate e di fronte ai primi richieste e poi alle prime diffide la risposta è stata per iscritto, come mi ha spiegato proprio, finalmente mi è chiaro avendo capito la lezione dei professori io non pagherò più le rate perché ho capito che voi come banca create moneta dal nulla grazie alla riserva frazionaria e quindi io non vi devo gli interessi, vi sfido a portarvi in tribunale. Ecco, un mondo che diventa così è un mondo un pochino più complicato per così dire. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in studio con i compari dei conti della Belva. Grazie Oscar per la dritta. Adesso facciamo un leasing. Domani vado a comprare la macchina. Ci ha fatto vedere la lettera. Ecco la lettera. Ma io sono senza parole. Come domani vado a cambiare la macchina e faccio il leasing. E poi a non lo proposito pago. Di vicende incredibili, io devo ringraziare chi ci ha segnalato questa vicenda che a me ha fatto rabbrividire. All'inizio non la credevo vera, la credevo un plot di un romanzo, perché io sono il primo a criticare l'inefficienza della pubblica amministrazione, il fatto che ci tratta da sudditi e non da cittadini, ma diciamo entro certi limiti che uno considera non realisticamente superabili. Ebbene no, la vicenda che adesso vi raccontiamo, a mio giudizio, supera persino i limiti della fantascienza. Stiamo parlando di un settore particolare, e quindi il settore dei servizi offerti dagli estetisti, e di come lo Stato regolatore si comporta nei loro confronti, dalla bellezza di una norma che è uscita nel 1990. Quindi sono passati 26 anni e a raccontarcela l'avvocato Simone Contarini, che appunto rappresenta anche gli interessi della categoria. Buongiorno e grazie. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti i conduttori che sono lì con te e agli ascoltatori. Allora, io ti prego di raccontare, perché è il racconto la cosa fondamentale, cioè non andare subito al succo, cioè sì. Spiega passo per passo quello che succede. Sì, allora, io sono, come hai detto, Simone Contarini, faccio l'avvocato, difendo un'associazione di categoria che si chiama Confestetica, che come si può intuire dal nome è un'associazione attiva nel settore dell'estetica, tutela appunto le imprese aderenti spalmate su tutto il territorio nazionale e conta circa 4.000-5.000 iscritti in un comparto, quello italiano, che raggruppa all'incirca 30.000 aziende. Sono 30.000 i centri estetici più o meno, con un centinaia, 100.000 aderenti, con 100.000 operatori del settore, e appunto, come spiegavi tu, la legge di riferimento del settore dell'estetica è una legge datata, è la legge 1 del 1990, la legge 1 del 1990 che allegava un determinato numero di apparecchiature elettromeccaniche, come si dice in gergo, che erano utilizzabili dall'estetista. La stessa legge elettromeccanica, allora, significa, per capirci, perché forse le signore, sì, capiscono al volo, i signori fanno finta di non capire, anche se frequentano, però laser, ultrasuoni, eccetera. Esatto, macchinari. La stessa legge all'articolo 10 invitava il Ministero della Salute e delle attività produttive ad aggiornare questo elenco, che chiaramente doveva andare di pari passo con il progredire dell'evoluzione tecnica, e a fare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge delle schede tecniche sui macchinari consentiti. Esatto. Il meccanismo all'apparenza era semplice, semplicissimo, però non tiene conto dei tempi biblici della pubblica amministrazione, perché il decreto, che appunto doveva essere fatto entro 120 giorni, non è stato fatto nei 120 giorni, ma neanche in un anno, neanche in due, neanche in cinque. Siamo arrivati addirittura a 21 anni di ritardo, perché il decreto in questione è stato fatto per la prima volta nel giugno del 2011. Vabbè, lentopede, insomma, però è arrivato. Sì. Diciamo, è arrivato, però non era quello che ci si aspettava. Per quale motivo? Perché chiaramente nei 21 anni di tempo che i ministeri si sono presi, la tecnologia era progredita e l'estetista aveva fatto abitualmente uso di apparecchiature chiaramente ad uso esclusivamente estetico, che avevano le caratteristiche generali indicate nell'allegato della legge 190, con ottimi risultati, tra l'altro. E parliamo di apparecchi che, ad esempio, appunto, sfruttano gli ultrasuoni, il laser. E c'è un apparecchio che si chiama, in particolare, che sta molto a cuore all'estetista, che è la cavitazione. È un apparecchio che sfrutta ultrasuoni a bassa frequenza per curare gli inestetismi dell'adipe localizzato, una sorta di liposuzione non invasiva che viene fatta con un manipolo che si passa sulla parte interessata da trattare e scioglie con gli ultrasuoni le cellule di grasso. Quindi, come detto, arriva nel tardo 2011 questo decreto che, appunto, senza colpo ferire e passando sopra agli investimenti cospicui che aveva fatto la categoria, perché tieni conto, Oscar, che questi macchinari stanno in una forbice compresa tra i 25 e i 50 mila euro l'uno. Che, insomma, la gente aveva investito un bel po' di soldi nella somma complessiva. Ma perché questi macchinari, il decreto del 2011 li proibisce, li vieta? Il decreto del 2011 toglie completamente la cavitazione, quindi gli ultrasuoni a bassa frequenza sono stati eliminati, e depotenzia i laser. Il tutto però senza che ci siano motivazioni plausibili, o comunque, come si potrebbe dire in maniera figurata, ci mette una bella foglia di fico, che è quella della sicurezza, perché dice, secondo il Consiglio Superiore di Sanità, che allega il proprio parere a questo decreto, e dice i macchinari sono pericolosi. Ma sono pericolosi nel senso che viene attestato in base a delle stime, delle ricerche che sono state fatte su coloro a cui erano state adottate questo tipo di interventi con questi macchinari, o in base a che cosa? Assolutamente no. È una giustificazione tautologica, cioè sono pericolosi perché sono pericolosi. Quindi l'estetista non può più utilizzare questi macchinari, o li deve aggiornare perché appunto depotenziati, quindi li deve mettere, se li vuole utilizzare, di pari passo con la normativa, e quindi si trova praticamente catapultata nel 1990, perché i macchinari, diciamo, più efficaci le sono stati tolti. E sono macchinari, diciamolo però, nel nostro paese, perché ne è vietata l'acquisto a privati per questioni di sicurezza o per questioni medico-cliniche? No. Assolutamente no, perché ad esempio la cavitazione si trova tranquillamente acquistabile anche su internet volendo, e c'è scritto nella scheda tecnica allegata a macchinari, e ne ho visti diversi, assolutamente sicuro, assolutamente quindi in buona sostanza, dopo 21 anni tutti gli estetisti si hanno questi macchinari e li hanno, ci hanno speso bei soldini a stare a questo decreto di 21 anni di attesa, devono sbaraccare tutto. E a quel punto che cosa si decidono di fare? A quel punto Confestetica, che è l'associazione, mi conferisce mandato per impugnare questo decreto davanti al TAR del Lazio. Oh. Di fronte al TAR del Lazio si fanno presente queste evidenti anomalie e contraddizioni. Tieni conto, un esempio proprio diciamo lampante e efficace è che una nota marca di un laser che è disponibile anche nella grande distribuzione, quindi chiunque lo può acquistare ad esempio nei grandi supermercati, nei grandi magazzini, e ha uno spettro, perché il laser ha uno spettro di luce che si misura in nanometri, che è addirittura maggiore di quello previsto dal regolamento. Quindi evidentemente ragioni che ci sfuggono, ma insomma a quel punto andate al TAR. Andiamo al TAR. Il TAR fissa l'udienza cautelare perché chiaramente c'erano gravi danni. Quindi avete chiesto un'urgenza, misura d'urgenza. Esatto, chiediamo di sospendere il provvedimento. Sì. Il TAR nel novembre del 2011... e fa un'ordinanza dove dice che ritenuto che le nostre esigenze cautelari rappresentate possono trovare adeguata tutela in una fissazione dell'udienza pubblica per la decisione, ci fissa a breve la decisione, appunto l'udienza pubblica per discutere il merito. Mm. Il che bene, vuol dire, ma? Appunto, esatto, ma? Andiamo a discutere il merito. Però c'è un piccolo incidente di percorso perché slitta l'udienza in quanto viene cambiato il collegio, il nuovo relatore è quello che era capo di gabinetto del Ministero della Salute quando viene adottato il decreto in questione. Quindi c'era un piccolo conflitto di interesse. Piccolo conflitto di interessi e io mi vedo costretto a ricusare il giudice. Non viene neanche presa in considerazione l'istanza di ricusazione perché nel frattempo vengo contattato dalla cancelleria del TAR che mi dice è stato un disguido, ci scusiamo per questo disguido, vi fissiamo una nuova udienza. Mm. Quindi archiviamo questo incidente di percorso e andiamo a discutere il merito. Forti di quell'ordinanza cautelare appunto che aveva detto che nella discussione in pubblica udienza avremmo trovato adeguata tutela per le nostre esigenze, ma così non è, perché il TAR del Lazio con la sentenza che emette rigetta il ricorso, quindi ci troviamo a dover appellare al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato nel marzo 2014 emette la sentenza dove dice che sono fondati i rilievi in ordine al difetto di motivazione e di istruttoria di tutte quelle limitazioni che sono state imposte con il famoso regolamento. Quindi dopo 24 anni si capisce che il decreto attuativo che era venuto dopo 21 insomma, non funziona. Avete vinto. Sì, abbiamo vinto, tra l'altro il Consiglio di Stato dice che parere famoso... No, lei tu mi dovevi dire, abbiamo vinto ma, perché altrimenti l'ascoltatore dice, vabbè, allora cosa ci state raccontando? Ci avete messo 24 anni ma avete vinto. No, esatto, perché? No, perché? No. Perché? Perché il Consiglio di Stato, poi appunto dopo la sentenza, i ministeri dopo la sentenza, nel dicembre del 2015... fanno un altro decreto. Ecco. Fanno un altro decreto che nel è lo quale? Stesso. Che è lo stesso! Che è lo stesso, cari ascoltatori! È lo stesso, perché cavitazione non c'è più. Ma lo motivano questa volta? Lo motivano? Lo motivano? No. Perché no, motivano. Fanno una pseudo-istruttoria, una nuova istruttoria, dove dicono sì, è pericoloso il macchinario, tra l'altro richiamano anche quel parere del Consiglio Superiore di Sanità che il Consiglio di Stato aveva non lo motivano. Allora voi lo rimpugnate. Noi lo rimpugniamo nuovamente, andiamo a fare l'udienza cautelare nuovamente al TAR. Al TAR E il TAR nuovamente, tra l'altro ulteriore incidente di percorso perché l'udienza non veniva fissata. Non te la fissano perché è sparito il fascicolo. È sparito il fascicolo. Ad aprile di quest'anno riusciamo però a trovare il fascicolo e discutiamo nuovamente il cautelare. Ma il TAR rigetta di nuovo. Rigetta la Non c'è pericolo. Quindi impugniamo il rigetto del andate di nuovo al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato depositiamo il 20 di luglio il ricorso dopo averlo notificato e l'udienza non ci viene fissata. In teoria dovrebbe essere fissata entro 10 giorni dal deposito del ricorso, 20 giorni dall'ultima notificazione. Questo non avviene e tieni conto, notizie dell'ultima ora, parentesi, il Consiglio di Stato, dopo che appunto non ci fissava udienza, l'abbiamo sollecitato più volte, siamo andati in cancelleria a chiedere ragioni di questi ritardi e ci dicono prima che c'era un vizio nel ricorso perché non avevamo chiesto la discussione cautelare, cosa non vera. Ci viene detto che... Ma comunque in realtà siete ancora appesi a che cosa? Per arrivare adesso? Di cosa siete in attesa adesso? Siamo in attesa ancora di discutere questa nuova udienza cautelare al TAR, che, ti dicevo prima, notizie dell'ultima ora, mi hanno contattato prima i miei colleghi di Roma, che sono andati in Consiglio di Stato anche questa mattina, e gli è stata fissata, nonostante appunto ci fossero dei vizi nel nostro ricorso, hanno fissato, dopo aver sollecitato per 2 mesi, il 13 di ottobre l'udienza cautelare. Va bene, abbiamo scoperto dove è andato, da dove arriva il PIL aggiuntivo dello 01. Il lavoro degli avvocati. Stiamo parlando di un problema che riguarda comunque decine di migliaia di statisti, di gabinetti di statistica nel nostro paese, impianti. Come avete, io spero che sia chiaro, cioè, un decreto che doveva arrivare attuativo in 120 giorni arriva nel 2001 rispetto alla legge del 90. Poi mette dei limiti senza spiegarne il perché, per cui bisogna smontare tutto. E da allora 2 iter complessivi di fronte alla giustizia amministrativa che non riescono a venirne a capo. È possibile mai un paese in cui lo Stato tratta così l'impresa? È possibile? Perché è possibile? Perché bisogna accettarlo? In base a che cosa bisogna subirlo? Perché bisogna essere rassegnati? Perché bisogna essere pronti a dire ma è l'Italia? A me fa schifo! Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci qua alla nostra rubrichetta su cui riflettiamo sulle comunicazioni, alcune comunicazioni, forme di comunicazioni politiche o pubbliche della settimana. E questa settimana vi vogliamo proporre il modo in cui è stata fatta la scelta del no alle Olimpiadi. Tenete conto, noi abbiamo fatto dibattiti per tanto tempo chiedendo confronto sui numeri seri, perché i precedenti edizioni delle Olimpiadi sono tutti negativi su ipercosti, perché sappiamo quali sono i problemi del bilancio a Roma, delle sue partecipate, eccetera, eccetera. Ma volevamo un confronto serio. Ecco, confronto serio, e il confronto serio non c'è stato. Vi proponiamo 2 dichiarazioni fuse insieme del sindaco Raggi. Guardi, se dovessi diventare sindaco sarò io stessa a indire un referendum consultivo, come è consentito dal regolamento. È da irresponsabili dire sì a questa candidatura. No alle Olimpiadi del mattone. Assolutamente no. Ecco, cioè, capite, mettendolo tutto insieme si capisce il nocciolo del perché non ci convince, perché come sempre nella vita pubblica, come spesso, troppo spesso, nella vita pubblica si dice una cosa, se ne fa un'altra. Era l'occasione per mettere, perdonatemi, alle corde i modelli previsivi usati e proposti nella successiva correzione della proposta del comitato promotore, che non era più quella ridicola iniziale. E invece non è stato possibile. E quindi molta gente ottiene l'impressione che la sceneggiata poi del pranzo mentre il Comitato Olimpico aspettava a Campidoglio in realtà dia ragione a chi proponeva le Olimpiadi. E dall'altra parte invece è altrettanto pregiudiziale ritenere che quelli sono i rappresentanti degli adunchi artigli e dei costruttori. È tutto un pregiudizio però. Forse per serietà bisognava fare quello che si era detto che si sarebbe dovuto fare. Ma se questa è la mia opinione, sentiamo quella di un osservatore esterno alla cui opinione teniamo tanto, perché con noi anche questa settimana Udo Gumpel, giornalista e corrispondente all'Italia per la radio televisiva tedesca NTV. Udo, a te che impressione ha fatto il modo in cui è stata scelta questa cosa delle Olimpiadi a Roma? Purtroppo una pessima impressione, perché quando la Raggi, mi pare che era il 15 di giugno, in quel dibattito che tu hai trovato la parola originale della Raggi con Giachetti, diceva: in caso diventassi io sindaco faccio il referendum, farei il referendum. Mi sembrava la sua conclusione più corretta, perché in quel caso ha detto va bene, la Raggi ha scelto una via istituzionale, ma anche soprattutto quella coerente con l'idea promulgata, propagandata dai 5 Stelle di sentire la gente, di essere solo portavoce della gente. Invece in questo caso la Raggi si è assunta lei la responsabilità di confermarsi bugiarda, perché quello che noi tutti diciamo piccole e grandi bugie, la bugia utile, la necessaria, la bugia insomma nella nostra vita privata è costellata di bugie, però il personaggio pubblico, il politico in uno spazio politico non può dire bugie. In altri paesi per una bugia di quel genere detta nello spazio pubblico, soprattutto su una questione così importante, sarebbero praticamente inevitabili le dimissioni. Perché tu, Raggi, hai vinto le elezioni anche alla grande, perché la gente qui a Roma non se ne poteva più del PD e delle altre gestioni. Perciò tu hai vinto contro Giachetti. Però tu hai vinto anche perché hai promesso di risolvere una questione che divide la città, dove anzi tutti i sondaggi dicono che la maggioranza dei romani sarebbe a favore dei Giochi Olimpici. Tu l'hai risolta dicendo no, perché a te è arrivato l'ordine, Lucas, preciso del proprietario del tuo marchio, della tua associazione Grillo, che ha detto non se ne può fare nulla. Allora questo dimostra che in realtà la Raggi non è completamente autonoma nelle sue decisioni, dimostra la debolezza di questo movimento che non ha nessuna struttura democratica, perché è tutto comandato dal proprietario dell'associazione, e tutti quei famosi dirigenti del Movimento 5 Stelle, Di Maio, Di Battista e tutti gli altri, sono nominati dall'alto. Io, capito, questo mette a fuoco i problemi di questo movimento che si accinge a dirigere non solo a governare Roma, ma pretende di governare anche tutta l'Italia, e questo sinceramente è un pessimo presagio. Perciò io do un voto negativo, anche se, e questo mi preme molto a dire, io nella sostanza sarei più favorevole a votare no a questo referendum, come peraltro i miei concittadini di Amburgo, esatto, hanno votato no, ma in un referendum, non l'ha imposto la politica, anche se tutta la politica di Amburgo era a favore. La popolazione ha detto no, e questa è una città che ha un tasso di corruzione bassissimo e dove in realtà il sospetto di abusi costruttori non c'era nulla, ma in Germania hanno votato contro il Comitato Olimpico Nazionale e anche quello internazionale guidato da un tedesco, perché quello è fortemente sospettato di essere corrotto, esatto, con Putin. Esatto. Questo è, però devi lasciare la parola al popolo in una cosa del genere, e tu che dici che parli per il popolo, sei un po' come i comunisti che dicevano sempre di parlare per la classe operaia, e poi quando loro, la classe operaia, non era d'accordo, venivano, insomma, avvenivano avvenimenti che adesso certamente a Roma non avvengono, ecco. Però, no, però per chi conosce la storia sa benissimo, chi si autoproclama la intelligenza, la guida del popolo è di solito abbastanza sospetto di non esserlo, no? Io sono integralmente d'accordo con lo Anch'io. Infatti, avevo fatto pure la campagna per il referendum con Riccardo Maggi, quindi non c'è niente da aggiungere, per così dire, tranne il fatto che sbagliando si impara. Io spero che valga però questo errore, perché altrimenti, ripeto, guardate che credendo di vincere coltivando il pregiudizio e la recita, è un boomerang che ti si ritorce contro. questo io lo dico a tutti gli ascoltatori che hanno votato Tifano 5 Stelle, fatevi sentire con i vostri rappresentanti, perché così state facendo il gioco che nemmeno si aspettava nella migliore delle ipotesi chi è il vostro avversario che ha la responsabilità di aver ridotto a Roma in quel modo. Grazie Udo Gumbel, ci sentiamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ed eccoci qua ancora una volta, Renato, prima di chiederti a che cosa non ci dobbiamo rassegnare, forse ci dobbiamo rassegnare come imprenditori, eccetera, ti faccio un esempio delle cose che ancora questa settimana mi hanno fatto girare veramente le scatolette. Il titolo è "Scoprì le spese pazze del presidente di Ferrovie Nord Milano e le denunciò", quindi uno di quelli che si chiamano i whistleblower, i sussurratori, che teoricamente dovevano essere protetti. Dovrebbero essere protetti, dovrebbe essere la cultura che noi dobbiamo diffondere nelle imprese pubbliche e private, perché sono i testimoni civili del rispetto delle regole. Bene, esautorato dall'incarico. Andrea, strano. Si chiama Andrea Franzoso, lavorava all'interno dell'audit di questa partecipata di Regione Lombardia e segnalò le spese pazze dell'ex presidente Norberto Achille, assunzioni disinvolte, eccetera, eccetera. Bene, non è un licenziamento disciplinare, non è un licenziamento combinato, lo hanno messo, hanno fatto in modo di rendergli la vita impossibile. Progetti speciali. E se ne va. Un abbraccio a lui, Andrea Franzoso, un piccolo conato di vomito nel vedere che questo è il modo reale in cui vi fanno i convegni su, capisci, la social corporate responsibility. Di fatto questa è l'amara realtà. Ok, Renato. Oggi tema un po' spinoso, però volevo parlarne. Mi ricollego al diritto di sciopero, perché prima parlavamo di Alitalia. Sì. Allora, che se ne dica, ci sono un sacco di aziende in crisi e ci sono purtroppo molte multinazionali in crisi. Allora, il tic italiano è: la multinazionale va in crisi, sciopero e blocco dello stabilimento. Perché cose, questi c'hanno i soldi, è inutile. Questi c'hanno i soldi, li facciamo perdere, li adesso li facciamo vedere noi. Allora, vorrei ricordare una cosa. Se voi lo fate con un piccolo imprenditore, quale potrei essere io, è vero, mi fate perdere i soldi e probabilmente io perdo un sacco di soldi e sono costretto a trovare una soluzione. Se voi lo fate con una multinazionale che ha magari decine di stabilimenti nel mondo, si accende una lucina dove è la holding e dove c'è il capo supremo che tutto fa e tutto decide, e tutte le mattine lui riceve un report e nel report tutti i giorni dicono: produzione a Milano bloccata perché c'è sciopero. Secondo giorno: produzione a Milano bloccata perché c'è sciopero. Terzo giorno: cerca il dirigente di Milano, non è in ufficio perché l'hanno tenuto fuori. Quarto giorno: produzione bloccata perché c'è sciopero, chiama uno dei suoi e gli dice: sentite, ma sta Milano che continua a rompere le scatole, non è che possiamo chiuderla e così risolviamo il problema. Allora, in Germania la strada che si è seguita quando c'è stata una grossissima crisi è stata quella dei contratti di solidarietà. Mm-mm. E la seconda parte è stata anche aumentare la produttività e rendere gli stabilimenti più attrattivi, non un problema per le multinazionali, perché se voi rendete alle multinazionali un problema allo stabilimento, lo vanno altrove. Non fanno nient'altro che difendere gli interessi dell'azienda, cioè andare altrove. Allora, ahimè, mi spiace, sono cose delicatissime, nessuno di noi che fa l'imprenditore, vi assicuro, fa operazioni quando il mercato non va bene a cuor leggero. Ci può essere qualcuno magari che si diverte fra le persone che lo fanno di mestiere, però sì, va bene, nel 99% dei casi vi assicuro che non è una cosa che si fa a cuor leggero. Ma cercate di non farvi venire il tic o di farvi trascinare dai sindacati, che lo fanno a volte, mi dispiace dirlo, soprattutto per una visibilità propria. di cominciare a bloccare gli stabilimenti e fare gli scioperi. Se voi volete che il vostro lavoro vada avanti, quello che dovete fare è aumentare la produttività. Qua l'abbiamo detto un milione di volte, continuiamo a dirlo, ed è l'unico modo in cui voi vi assicurate che la multinazionale continui a tenere lo stabilimento in Italia. Aia, l'unico modo naturalmente sarebbe l'insurrezione di chi ci ascolta dicendo che sei un bieco rappresentante dei padroni. Però certo, un punto fondamentale è questo. No, punto fondamentale è questo comunque. Cioè, ripeto, la produttività non c'è in questa agenda nazionale. Come se non esistesse questo problema, che è il vero nocciolo duro. Beh, della questione italiana. Devo approfondire la presentazione di quest'anno. La questione di italiana ha due grandi problemi. La sostenibilità del debito pubblico, di cui ci occupiamo, anche se con opinioni diverse. Ma la produttività inesistente in Italia da oltre 20 anni, questa è una cosa di cui sembra che ci occupiamo noi perché siamo astronomi, per così dire. Va bene, allora grazie cari compari, noi ci vediamo sabato prossimo. Avete una settimana intensa? Abbastanza, abbastanza, come sempre. Esatto. Io ultimamente intensissima, preferisco. Vi abbraccio anche cari ascoltatori da parte di Carlo Alberto, che oggi invece era un po' renitente. Continuate con la 24, appuntamento come Alessandro Minalotte 20 lunedì mattina con la Tentere 2. Fratelli d'Italia.